50 domande su Gesù. In che consiste sostanzialmente il messaggio cristiano? Consiste nell'annuncio di Gesù Cristo. Egli è la buona notizia, il Vangelo, proclamata sin dall'inizio dagli Apostoli, come scrive San Paolo ai Corinzi. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho predicato, che avete ricevuto, nel quale avete perseverato e per il quale siete salvi. Vi ho infatti trasmesso in primo luogo lo stesso che ho ricevuto, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu sepolto e che resuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve prima a Cefa e poi ai dodici. Prima Corinzi capitolo 15 versetti 1-5. Questo messaggio si riferisce direttamente alla morte e resurrezione di Gesù per la nostra salvezza e afferma che Gesù è il Messia, il Cristo, inviato da Dio così come era stato promesso a Israele. L'annuncio di Gesù Cristo comprende pertanto la fede in un Dio unico, creatore del mondo e dell'uomo e protagonista principale della storia della salvezza. Il messaggio cristiano annuncia che con Gesù Cristo si è realizzata in pienezza la rivelazione di Dio all'uomo. All'arrivare della pienezza dei tempi, Dio mandò suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, affinché riscattasse quelli che erano soggetti alla legge e noi ricevessimo l'adozione a figli. Galati, capitolo 4, versetti 4-5. Gesù rivela chi è Dio in una maniera nuova e più profonda di quella che aveva ricevuto il popolo di Israele. Rivela Dio come suo Padre in un modo del tutto nuovo, fino ad arrivare a dire: «Il Padre e io siamo una sola cosa». Appoggiandosi all'insegnamento degli Apostoli, la Chiesa annuncia Gesù Cristo come Figlio di Dio e vero Dio della stessa sostanza del Padre. Gesù agì durante la sua vita sulla terra con il potere di Dio e dello Spirito di Dio che stava in Lui, e inoltre promise di inviare lo Spirito Santo dopo la sua risurrezione e la sua glorificazione nell'unità col Padre. Quando gli Apostoli ricevettero lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste, compresero che Gesù aveva compiuto la sua promessa dal cielo e sperimentarono la sua forza trasformatrice. Lo Spirito Santo continua a vivificare la Chiesa. Il messaggio cristiano comprende pertanto lo Spirito Santo, vero Dio e terza persona della Santissima Trinità. Il messaggio cristiano annuncia anche quello che annunciava Gesù Cristo, il regno di Dio. Gesù riempì di contenuto questa espressione simbolica, indicando con essa la presenza di Dio nella storia umana e l'alleanza di Dio con l'uomo. Gesù annunciava il regno di Dio come già iniziato con la sua presenza fra gli uomini e le sue azioni liberatrici dal potere del demonio e del male. E questa presenza di Gesù Cristo continua nella Chiesa per virtù dello Spirito Santo. La Chiesa è nella storia umana come il germe e il seme di questo regno, che culminerà gloriosamente con la seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi. Frattanto, mediante il battesimo, in essa prende nome una nuova relazione con Dio, quella di Figlio di Dio unito a Gesù Cristo, che continuerà anche dopo la morte e nella resurrezione finale. Cristo continua a essere presente nella Chiesa, nell'Eucarestia e operando anche negli altri sacramenti, segni efficaci della grazia. Mediante l'azione dei cristiani, se vivono la carità, si va manifestando l'amore di Dio a tutti gli uomini. Tutto questo fa parte del messaggio cristiano.